ad alta voce. Monica De Muro legge L'iguana di Anna Maria Ortese. La misera casa. Si discute dell'universo. Aiutami. Usciti dalla cucina, andarono a visitare la casa, che all'interno appariva molto più grande e bella nella sua tristezza di quanto si notasse da fuori. Vi erano, lungo un corridoio, molte altre stanze, e tra queste la sala di entrata. Tali stanze il marchese le mostrò appena attraverso le porticine socchiuse. Erano in un indescrivibile cupo abbandono. E sui muri alti e bianchi si riflettevano, filtrati dalla grana del vetro di piccole finestre, tutti i movimenti del fogliame di alcuni alberi che fuori, vento e sole nel silenzio, agitavano. Mazzetti rossi di pomodori messi a seccare, polverosi libri, orologi fermi, qualche ritratto di antenato, armadi verdi dalle ante staccate, tutto ciò che si mostra di solito nelle vecchie case abbandonate, là era in gran copia. E questo faceva uno strano contrasto con l'affermazione del marchese che la iguana pensava a tutto e teneva ordine. No, non vi era ordine. Qualcosa lo rendeva impossibile e solo apparentemente la iguana era destinata a questo. E sempre più di fronte a tali contraddizioni che andavano prendendo un significato abbastanza sinistro, il conte si domandava quale fosse il mistero di quella casa e se la miseria ne era davvero l'unico e peggior male. Raggiunto il capo del corridoio, dove una stretta finestra senza tende, come tutte le altre, brillava in quel momento della luce bianca del sole uscito dalle nubi, si vide che il corridoio faceva gomito, percorrendo tutto il lato destro della casa, dove poi terminava davanti a una scaletta di pietra che portava ad una torricella che di fuori si vedeva adornare la casa come un dente guasto. Anche qui, polvere, scalini rotti e in più un odore acre di carta accumulata da anni, di inchiostro marcio che, legandosi alla scena vista allo sbarco, rivelò al conte, per essergli in qualche modo familiare, quale fosse la vera attività del giovane Segovia. Quell'odore diceva che il giovanetto, nato tra le carte, tra quelle viveva e sempre sarebbe vissuto. Era un letterato, un bibliofilo forse, comunque un uomo immerso in eterna fantasticheria. E ricordandosi di quanto lo aveva pregato ad Elchi a Milano, risolse di domandargli, appena possibile, se non avesse pronta una qualche interessante opera. «Ecco», diceva intanto Don Ilario, «lassù è la mia biblioteca», e la indicava con la trasparentissima mano. «Più tardi te la mostrerò perché ora è un po' in disordine. Tu ti fermerai da noi stasera, vero? E forse anche domani. Che gioia! Quanto te ne ringrazio, Dado! Ma ora sarai stanco? Vieni, ti accompagnerò alla tua camera». E vi era in ognuna di quelle parole un che di debole, di disarmato, anche di estatico, come d'un tratto egli andasse dimenticando ogni male o terrore o fastidio e l'animo suo si aprisse per la benefica presenza del conte a non si sa quale sommersa e ora riaffiorante, amata e imperitura speranza. Riposatosi forse mezz'ora nella sua stanza, se può darsi riposo nel riposo, perché mai il conte si era sentito più disteso di così, quasi in un dormiveglia quando aprile incomincia e tutto, malgrado lo inquietasse, lo cullava anche, il daddo fu lieto, a un lieve colpetto bussato alla porta, di alzarsi e raggiungere a tavola gli ospiti. Mangiarono nel salone, serviti da una iguana assai diversa dalla prima, nel senso che, pur essendo la medesima estrellita che tanta incomparabile felicità aveva mostrato davanti alla sciarpa, e quasi un'improvvisa fioritura di giovinezza, ora come se un'antica umiliazione, il cui segreto era forse in quel rimprovero di Don Ilario, avesse velato di nuovo la sua dolorosa mente, sembrava decisa a non risalire, nemmeno per amore del conte, dagli abissi della sottomissione più apatica, della più triste sonnolenza del cuore. Posava con una indifferenza e quasi malgarbo, che più delle volte il conte aveva notato nei fanciulli infelici, le pietanze sul tavolo, e subito dopo andava ad accucciarsi come annoiata sotto il tavolo medesimo. Là Don Ilario più volte le gettò un osso, qualche pezzetto di pelle d'una gallina, che Felipe aveva preparato in onore dell'ospite. C'era anche una minestra di patate con tutte le bucce e scipita, ma il conte, comprendendo che il rozzo Felipe non poteva fare di meglio, la lodò molto, dicendo che mai ne aveva mangiata prima di ora, il che era vero, e voleva ordinarla a Milano. Niente sarebbe mancato dunque alla serenità, se non a una vera allegria del conte, solo che quei nobili provinciali avessero permesso alla bestiale servetta di sedersi a tavola, e quel dolore che gli scopriva sotto la povera fronte fosse stato consolato, cosa, come si può facilmente arguire, impossibile. Ma il conte, anche perché la creatura si era accucciata proprio presso la sua sedia e ogni tanto vedeva una verde manina allungata fuori dal tavolo a chiedere l'obolo d'un pezzetto di pane, ci stava male. Essa aveva gli occhietti rossi e appariva molto in disordine. Sul suo esile muso allungato era calata una nebbia che lo rendeva ora, nel dolore o rassegnazione che fosse, privo di qualsivoglia espressione, sicché a momenti si sarebbe detto che a causa del proprio abbandono la creatura dormisse. Facendosi forza con la sua buona educazione per ignorare la crudeltà dei Guzman che così turbava il suo cuore, il conte portò la conversazione sullo scopo secondario del suo viaggio, tacendo il primo, che era acquistare isole per la contessa madre e che avrebbe potuto ferire la sensibilità di quei miseri. Parlò così del grande sviluppo dell'editoria lombarda e della carenza di opere che a un certo momento rischiava di far crollare l'intero macchinario di quell'industria. Disse gran bene, dopo peraltro averlo dato anche gli altri editori, del giovane Adelchi, cui era facile predire, disse, per le sue brillanti e inesauste doti di compratore di talenti, un luminoso avvenire, e per concludere riferì la preghiera di cui era stato oggetto prima di iniziare il suo viaggio una sera in via Manzoni: portare a Milano qualche manoscritto inedito, romanzi o cantos riguardanti il Portogallo. Si astenne però dall'indicare l'argomento suggerito dalla moda, miseria, oppressione, possibilmente qualche amore piccante, parendogli di poco tatto in quella casa che, traboccando delle due prime materie, non mostrava della terza, anche la più scialba e usuale, la benché minima parvenza, e si limitò ad accennare che sarebbe stata gradita una qualche opera del padrone di casa. Don Ilario, a queste parole, ebbe di nuovo nei tristi occhi azzurri quell'espressione di gioia, quella luce di speranza che il conte aveva notato mentre parlavano in corridoio. Però, come nella turbata mente, che a tanto porta una prolungata, una mai più interrotta solitudine, forse a veri deliri, come vedremo, chiusi da fulminanti calme, non osasse fermarsi su una possibilità simile, non raccolse l'accenno, preferendo forse, argomentò il conte, rimandare il discorso a un momento in cui il suo interesse per la cosa potesse mostrarsi casuale, e ciò non per calcolo, sebbene per quel pudore intensissimo che gli spiriti elevati provano davanti a qualsiasi ammiccamento dell'utile. pregò quindi, quasi a gettare le basi di una curiosità atta a legare proposta e risposta, senza ferire la decenza, pregò Estrellita di andare a prendere in camera quei romanzi che il conte gli aveva donato e volere subito dopo servire il caffè. Al che la servetta, uscendo tutta cupa da sotto al tavolo e quasi incantata, obbedì. Andò e tornò, ma non così presto che il conte, riprendendo il discorso interrotto e interrogandosi pur cautamente Don Ilario su quelle che erano le reali condizioni della cultura portoghese, non avesse scoperto nel ragazzo un atteggiamento davanti alla parola cultura che non poco lo colpì e non favorevolmente. Disse dunque il marchese che, a parer suo, pur prendendo atto delle diverse strutture economiche che dividono i due paesi, uno ponendo, per così dire, in primo piano e l'altro alquanto più indietro, disse dunque che non da questo, e poteva sbagliare, ma non se lo augurava, dipendeva il ritardo in Portogallo di un risveglio artistico, letterario e quindi editoriale. Sibbene dalla presenza, nell'animo portoghese, eppure entro tanto sonno, di una coscienza assai dolorosa del dualismo che sta alla base del creato, e dalla certezza che, crescendo il bene, così pure crescerà il male, e che questi, più forte del primo, si vale di ogni opera, azione, progresso del bene per accendere il suo fuoco, come è possibile vedere, disse, dalle attuali condizioni dei popoli. In altri termini, essendo qualsiasi bene incentivo al male, incoraggiamento per questi a mettere fuori la sua spaventosa testina, appariva somma pietà astenersi da qualsiasi bene, a ciò che la vita, nel suo complesso di bene e di male, poco alla volta deperisse, e scioltosi al fine il nodo vitale, chi o coloro avevano fatto il primo errore, avvedutisi, cambiassero sistema, ricostruendo un mondo privo affatto di male. Questo dimostrandosi il vero fine della cultura, l'arenamento della vita e la divulgazione del principio che la vita va rifatta attraverso un ritorno al vuoto primigenio, era evidente che la via più giusta, il vero compito di ogni gentiluomo o poetico genio, stava nel ridurre al minimo, o almeno tener celato, il proprio respiro, al fine di non soffiare sul fuoco di un creato malizioso e stipato come un uovo di delitto e d'inganni, disse, irriferibili. Mentre queste parole diceva il marchese, con l'aria di guidare attraverso una premessa tra scherzosa e folle o un mistico paradosso, il discorso al punto in cui poteva gettarsi poi francamente in un terreno più reale, qualcosa nei suoi occhi diceva che quella concezione del mondo e quel terrore del male erano per lui cosa più seria di quanto il suo garbo ammettesse. E che anche in questo momento, come forse da anni, al solo evocarli, si erano trascinati dietro di lui e lo atterrivano come fantasime dispettose usano con inermi fanciulli. Egli arrossì in modo cupo. Poi quel colore fuggì dal suo volto e rimase nei suoi occhi non so che atroce fissità di pietra. Ed era penoso notare quanto in quella battuta disperazione egli fosse solo, che gli Avaredo intanto, ai due lati della tavola, continuavano a mangiare come nulla fosse, scambiandosi anzi sguardi di soddisfazione per quella scondita poltiglia che ora, con una forchetta rotta, trascinavano tutto intorno alla scodella a ciò che coprisse dei pezzetti di pane che vi avevano messo dentro. Ora, curvando le lanose teste, portavano alla bocca, producendo in quel silenzio un ghiotto rumore. «Perdonami, Ilario», disse a questo punto il conte, come ritornando in sé da non so che breve e profondo viaggio, «ma a questo punto, se non sbaglio, tu negheresti allo svolgersi del creato, anzi alla sua stessa gestazione, una qualunque finalità amorosa». Non esattamente, rispose il marchese, ma direi che Dio, o ciò che chiamiamo Dio, non è la sola origine delle cose, le quali, come vediamo dalla natura medesima, sembrano in ogni caso la risultante infelice di due elementi combinatisi, uno attivo, uno passivo, o se vuoi, uno positivo e l'altro negativo. In questo non scorgo alcun male. Non scorgi del male in ciò che frena la vita, l'aspirazione sublime a identificarsi con l'eccelso e riduce l'esistenza a una trappola per topi? No, a parer mio, disse il conte, se proprio questo male permette alla cara vita di rivelarsi. Vi è, evidentemente, ammise con calma, un che di strano in tutta questa architettura che ci circonda e che non smette mai di espandersi, in quanto, fra l'altro, non scorgi alcune fondamenta, ma null'altro. Credimi, caro, questa costruzione è bontà grandissima e il dolore che vi vedi sparso è pura conseguenza di costruire. Allora sono io che sogno, fece con amara ironia Don Ilario. Io solo ho sognato che il male esiste, ci opprime, e soggiunse con una bizzarra espressione sul volto mista di spavento e di rabbia. Scusami, ma ho l'impressione che qui faccia un caldo orribile, e anche freddo in verità. E si allentò, con mani tremanti, il collo della camicia. Perché il tempo sta mutando, commentò con aria scherzosa Ippolito. Il conte, commosso dalle sofferenze del giovanetto, ma più ancora da quei discorsi che sempre lo avevano interessato e che a Milano non si potevano più fare sul bene e il male, sul significato dell'universo, allungò una mano a prendere e stringere quella gelata del marchese e, carissimo, questi discorsi non sono affatto inutili e anzi ti ringrazio di avermi stimato degno di ascoltarli, ma verrà un giorno, vedrai, che tu stesso di certi timori farai oggetto di risa. E ciò sarà quando, uscito in qualche modo da tanta solitudine, avrai constatato che il mondo, quando non è malato, è buono. E se non lo è, essendo soltanto malato, ha bisogno per guarire di tutto il nostro intelligente amore. La mano che era nella sua a queste parole si abbandonò un attimo, con una fiducia che sconvolse il visitatore, mentre quegli occhi lo fissavano con l'incanto con cui il neonato vede arrivare la madre sua, che credeva perduta, e trema tra riso e pianto. «Fosse così», mormorò, «fosse come tu dici, che il male non esiste». Non personalizzato, perlomeno, non intenzionale, ma solo come un momento del divenire, il momento, per così dire, pratico. Srivakratum Namahakaya Koti Surya Samaprabha Nirvighnam Kuru Me Deva Shubhakarishu Sarvada Srivakratum Namahakaya Koti Surya Samaprabha Nirvighnam Kuru Me Deva Shubhakarishu Sarvada Srivakratum Namahakaya Koti Surya Samaprabha. Vi fu qualche minuto di grande silenzio, in cui al trasognato conte parve trovarsi al centro di un'attenzione o triangolo di attenzione, la cui maggiore punta non era forse nel salone. In altri termini, avvertiva intorno alle proprie parole una oscurità fatta ora di smarrita adorazione, Don Ilario, ora chiaramente per parte degli Avaredo di ingenuo divertimento, ora, ma non sapeva da parte di chi, solo lo intuiva, di ansiosa interrogazione, e ciò gli impediva di togliere dalla sua la mano del giovane, quasi cercasse anch'egli, il lieto lombardo, un filo di solidarietà. «Oh, signor, scherza!» intervenne alla fine con un volgare sorriso Ippolito. Non più di 6 anni fa, o demonio apparve su questa terra in forma di uccelletto, poi si fece serpente e subì molte altre trasformazioni, e qui è rimasto. E infine pretese anche la mesada e minacciò di rivolgersi ai liberi sindacati. Si dice così, oh signor? Ridacchiò Felipe. Improvvisamente queste battute, riferendosi a un personaggio che non occorre nominare, ebbero il potere, col loro quieto sarcasmo, di far arrossire il conte. E mentre si diceva che confortante a suo modo era il senso del reale mostrato dagli Avaredo, non poteva non preoccuparsi della irrimediabile solitudine in cui vedeva confinato colui che essi avrebbero dovuto proteggere. Così che il giovane spirito appariva veramente trattenuto dai demoni, e demoni tutt'altro che materiali, in profonde e innaturali prostrazioni, causa non ultima forse della sua incedente vecchiaia. E come sempre in tali contingenze cercò di raggiungere il porto della salute sulla navicella della praticità. E già riportando il discorso su cose concrete, stava per chiedere al marchese quale opera tale filosofia del terrore gli avesse ispirata, stesse per ispirargli, sempre per proporla alla editrice Adelchi e in capitoli quanti, allorché la sensazione di poco prima che qualcuno nascosto lo ascoltasse con febbrile curiosità, si precisò in certezza. Qualcuno stava ad origliare non visto. Udì alcuni profondi e dolorosi sospiri, come li gettano i fanciulli, il cui animo è disperato, e dietro una tenda vide brillare gli occhietti della iguana. Essa aveva udito tutto, e ancor più avida appariva di udire, sapendo di essere l'oggetto non nominato del discorso. Nei suoi occhietti c'era una così cupa attenzione che non badava più al pacco dei libri che stringeva al petto, ed ecco uno cadde con secco rumore denunciando la sua presenza. Allora l'infelice entrò, come nulla fosse, nella sala da mangiare. Il conte, come aveva fatto al mattino, con una letizia di cui non poteva spiegarsi la ragione e che forse non era in linea coi sentimenti degli ospiti, ma impossibilitato ad agire altrimenti, svelto si alzò e mosse incontro alla creatura, togliendole dalle braccia quel peso e raccattando il libro che era caduto, trovò modo di farle una fuggevole carezza sulla testina paurosa, al che la bestia non rispose nulla, ma ancora levò sul lombardo i suoi occhietti dolci e appassionati che raccontavano una infinita tristezza e pareva dirgli «Aiutami!» Indi, silenziosa, uscì.